Hadis numero 38 da Abu Huraira, che Allah si compiaccia di lui, disse: disse l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la bengloria, dice l'eccelso Allah: io affliggerò con la mia guerra chi tratta male un mio protetto. La mia creatura non si avvicina a me con qualcosa che a me sia più gradita del suo adempimento degli obblighi che io gli ho prescritto, ed essa non cessa di avvicinarsi a me con la pratica delle sue devozioni non obbligatorie, di modo che io lo amo. E quando io amo la mia creatura, io sono il suo orecchio con cui ode, sono il suo occhio con cui guarda, sono la sua mano con cui afferra con forza e il suo piede con cui cammina. Se mi chiede, io certo lo esaudisco, e se cerca la mia protezione, io certamente gliela concedo. L'ha riferito l'imam al-Bukhari.